Mi siamo pronti per il soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio a tutti da Gegè Telesforo e buon pomeriggio a quello che io considero uno dei migliori sax tenori del mondo in questo momento, italiano. Ladies and gentlemen, per voi qui al soundcheck, Max Ionata. Ciao a tutti, ciao Gegè. Max, tu hai una delle storie più romantiche per quanto riguarda la musica che io abbia mai sentito. Ti pregherei di raccontarla brevemente agli amici, perché Max lavorava montando turbocompressori per una grande azienda italiana, ma avendo la passione della musica tornava a casa sporco di grasso, imbracciava il suo sax tenore e faceva i suoi studi. Poi un giorno il papà gli dice: Max, ma tu che continui a perdere tempo con questo sax tenore, fra un po' metterai su famiglia, e quindi sai che c'è, ti mando a fare un'audizione da un maestro che deciderà le tue sorti. Che cosa successe? Questo successe quando ero ragazzo, che in realtà andai al conservatorio di Pescara, dove c'era un maestro che era molto fissato per la musica contemporanea del sassofono, che giustamente allora era soltanto concepita in quel modo lì, e ascoltare una persona che suonava jazz allora non era così normale, quindi disse a mio padre che ero negato per questo strumento. E tuo padre? No, mio padre mi disse: devi fare altro. Da allora non credette più nel mio talento, insomma, e quindi... Però tu, da abruzzese con la testa dura, hai continuato a studiare il sassofono di notte, e un bel giorno la compagna di allora, che oggi è la moglie di Max, la cara Stefania, guardando il marito così, come dire, sconsolato, che di giorno montava turbocompressori, tornava sporco di grasso con la passione della musica, e disse: Max, magari moriamo di fame, però fai il musicista da grande. E così è stato, infatti, quindi ci siamo organizzati perché io potessi lasciare questo lavoro, che tra l'altro mi ha dato tanto, mi ha dato la possibilità di studiare e di crescere, e ci siamo avventurati in questa bella avventura. Un'avventura che ormai ha quasi 20 anni di carriera per Max Ionata, ha suonato a destra e sinistra con i più grandi musicisti di jazz del mondo, è quotatissimo, i suoi dischi in Giappone sono stati anche fra i primi posti nelle classifiche discografiche per il jazz. Continui a fare la tua attività con il sorriso sulle labbra, con grandissima energia, regalando a tutti i musicisti che ti incontrano grandi momenti di musica. È un momento bellissimo di musica, l'ho anche regalato a me, abbiamo fatto centinaia di concerti insieme, un disco di successo come So Cool, ma anche in questa nuova produzione intitolata New Joy per la Columbia Records, Max Ionata, in un brano intitolato Go On, ci fa sentire quanto è forte e che talento ha. Go On al soundcheck di Radio 24. Yes. Banana do banana do banana deep banana bubble. Gone. No, no, no, no. The time has come to believe. Un grande regalo mi ha fatto Max Ionata, nostro ospite al soundcheck di Radio 24, con il suo sax tenore. Suoni anche il soprano, sono due strumenti che di solito i sassofonisti tenori utilizzano, no? Soprano e tenore, perché? Beh, è un po' una, come dire, una tradizione che viene da John Coltrane, che per primo ha iniziato a usare questi due strumenti insieme, quindi essendo tutte e due con un'intonazione simile, a differenza semplicemente di ottava, sono tutte e due in si bemolle, come si dice, è più facile, come dire, usarli insieme per avere due sonorità diverse. Adesso i conservatori hanno aperto ormai da qualche anno le porte al jazz, ci sono le cattedre di jazz un po' in tutti i conservatori in Italia. Tu insegni musica, hai frequentato questo tipo di corsi, qual è stato il tuo approccio con il jazz e con lo studio? Ma io sono principalmente autodidatta, non ho mai studiato musica in maniera... Come la maggior parte dei grandi musicisti di jazz. Questo non lo so. Sì, probabilmente, chiaramente negli anni che furono non c'era questa, come dire, questa grande tradizione di studiare in strutture magari organizzate. Comunque si andava a casa del musicista amico Beniamino, quello che si stimava, e si cercava di chiedere consigli, un po' quello che ho fatto io anche con te, insomma, spesso, no? Allora, si parla di musica, si parla di sassofoni, si parla di Maxionata in questo appuntamento del Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Maxine di Donald Fagen, dall'album del 1982 meraviglioso intitolato The Night Fly, con il sax tenore, un vero cameo, una vera perla, un solo meraviglioso trascritto da decine di sassofonisti a opera di uno dei migliori sassofonisti contemporanei, purtroppo scomparso anni fa. Vi sto parlando di Michael Brecker. Quanto è stato importante anche per la tua formazione, Max, siamo con Maxionata, Michael Brecker? Ma Michael Brecker assolutamente rimane uno degli esempi più moderni del sax tenore, continua ad esserlo ancora per tutti i giovani, ma per tutti in generale, per tutti i musicisti. È colui che ha portato il linguaggio di John Coltrane alla modernità, quindi applicato anche ad altri stili, ad altri ritmi, ad altre sonorità, e con un suono meraviglioso. È colui che ha segnato veramente un'epoca per questo strumento. Quanto deve essere versatile oggi un musicista? Assolutamente, a 360 gradi, non c'è più tempo da perdere dietro agli stili, dietro alle convinzioni. Bisogna essere aperti a tutto, assolutamente, altrimenti non si va da nessuna parte. Se tu dovessi dare un consiglio ai più giovani, ai giovanissimi sassofonisti, qual è il tipo di percorso e di approccio che devono avere con la musica e con questo strumento? L'umiltà, prima di tutto. L'umiltà è quella che ci fa vedere le cose che gli altri non vedono. Se tu sei umile, sei consapevole dei tuoi limiti e delle tue capacità, riesci ad andare molto in alto, altrimenti nulla. Quali sono stati i musicisti di riferimento per la tua carriera? Da cosa hai iniziato? Beh, io ho iniziato chiaramente con Dexter Gordon, sicuramente, Sonny Rollins, che continuo ad amarli e ad ascoltarli ancora oggi. Brecker è stata una tappa importante della mia crescita, però ho ascoltato anche tutto, dalla musica sacra alla musica pop, a qualsiasi cosa, funk. Io amo un po' tutto quello che funziona bene, quello che suona bene. Tu sei un musicista contemporaneo affermato ormai in tutto il mondo, suoni con i migliori musicisti di jazz italiani, e una delle cose che apprezzo del jazz e dei musicisti è proprio il fatto che non dimenticano il passato, che è importantissimo, che è sempre presente, e soprattutto sono proiettati nel futuro avendo questo tipo di background, e qui tu lo dimostri con questa nuova produzione discografica che ti vede protagonista insieme a un altro colosso del jazz italiano, che il nostro amico Dado Moroni, pianista meraviglioso, pianista con una carriera internazionale, e avete regalato questa perla di musica. Credo che sia uno dei dischi di jazz più belli prodotti in Italia negli ultimi anni, un disco dedicato completamente al suono e alla mentalità e al concept di Duke Ellington. Perché Duke Ellington? Perché Duke Ellington dire Duke Ellington è come dire blues, e dire blues è come dire tutta la musica dall'inizio alla fine. Cioè, lui se fosse vissuto oggi, probabilmente sarebbe stato comunque in cima alle classifiche con dei brani che le persone amano. Cioè, non è una persona che fa musica e basta. Noi lo abbiamo detto insieme a Renzo Arbore durante la prima settimana di programmazione del nostro soundcheck, che Duke Ellington scrisse quel pezzo, It Don't Mean a Thing If You Ain't Got the Swing, proprio per spiegare a tutti che lo swing è un elemento molto importante nella musica e nella vita. E quindi quando hai senso dello swing, senso del blues, senso armonico melodico, senso dell'interpretazione, dell'improvvisazione e anche, fammelo dire, un senso dell'umorismo che non deve, dello humor, no? Perché i grandi musicisti di jazz avevano senso di humor che poi si è un po' perso negli anni 70, allora hai le carte in regola per permetterti un duetto strepitoso come quello di Max Ionata e Dado Moroni in questo The Intimacy of the Blues, brano scritto da Billy Strayhorn, celebre compositore di Duke Ellington, qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24, nostro ospite Max Ionata, un colosso italiano del sax tenore nel mondo, per parlare di musica, parlare di jazz italiano. Quanto è forte il jazz italiano nel mondo oggi? Beh, è forte, ci sono tanti musicisti che riescono a collaborare anche con musicisti americani. Dico solo un esempio: l'ultima tournée che abbiamo fatto con Dado Moroni e batterista Alvin Quinn, abbiamo girato i più bei jazz club europei, tra cui il Duke de Lombardi di Parigi, Unterfart Jazz Club a Monaco di Baviera, insomma. E questo è un segno del fatto che noi siamo anche considerati oltreoceano, probabilmente come dei buoni sidemen, no? C'è un paese nel mondo che è molto attento alle vicende jazzistiche italiane, è il Giappone. Perché? Tu sei stato in Giappone, dove sei una star con la tua musica e i tuoi dischi, perché? Beh, il Giappone è una terra innanzitutto fatta di gente attenta al prossimo, attenta a quello che il prossimo produce e rispettosa verso l'essere umano prossimo. Per cui una cosa... che io ho prodotto dischi con etichette giapponesi che chiaramente hanno fatto in modo che questo prodotto venisse ascoltato il più possibile, e il popolo giapponese ha amato i dischi che ho realizzato lì, e sono riuscito ad andare anche tre volte in Giappone a fare le mie tournée, a fare i miei spettacoli. È vero, una volta nei jazz festival italiani gli incassi al botteghino li facevano gli artisti americani, oggi invece anche gli italiani fanno sold out dappertutto, nei piccoli e nei grandi festival. Quindi è cambiato anche il rapporto fra il musicista di jazz italiano e il pubblico di appassionati. Che cosa hai notato tu negli ultimi anni? Che cosa è successo? Ma io ho notato una crescita di pubblico ai concerti e soprattutto un abbassamento dell'età media, perché qualche anno fa, insomma, si suonava per un pubblico sempre un po' più maturo. E soprattutto non si vedevano ragazzi ai concerti di jazz. Vabbè, quelle un po' si vedono di più adesso, devo dire. È un buon segno, perché comunque significa che c'è un apprezzamento verso questa musica sempre crescente, no? Quanto è difficile suonare il sax tenore? Ma è difficile quanto cantare o quanto suonare la batteria o il pianoforte, sono punti di vista diversi, dipende da alcune forme fisiche anche della bocca, anche delle labbra, insomma tante cose che fanno alcune differenze. Io per esempio ho una mano enorme, probabilmente sarei stato più bravo al contrabbasso che al sassofono. Un suono classico nel jazz, ancora oggi molto utilizzato, è il binomio sax tenore e tromba. È un esempio, ve lo vogliamo dare ascoltando questo brano intitolato Mo Better Blues, già colonna sonora del film omonimo diretto da Spike Lee molti anni fa, dove il sassofonista Branford Marsalis, dalla gloriosa famiglia dei Marsalis di New Orleans, incontra la tromba di Terence Blanchard. Mo Better Blues al soundcheck di Radio 24. Siamo ai saluti, termina qui il soundcheck di oggi dedicato al sax tenore e alla figura di uno dei migliori musicisti italiani nel mondo oggi, Max Ionata. Max, ma qual è oggi il tuo sassofonista di riferimento fra i contemporanei? Beh, è molto difficile sceglierne uno, però se devo dire quello più attivo e quello più produttivo di tutti, quello più intelligente, che ha più qualità probabilmente di tutti, è Joshua Redman, senz'altro. Allora, Joshua Redman chiude il soundcheck, ti faccio questo regalo, con una sua composizione intitolata Greasy G, realizzata per la sua Elastic Band alcuni anni fa, dall'album Momentum. Qui incontra anche una bassista eccellente, Michelle Indege Ocello, Brian Blade alla batteria e Samihael alle tastiere e via dicendo. Grazie a Max Ionata, termina qui il soundcheck e quindi buon ascolto con la grande musica di Radio 24. Check. Il suono della musica.